mondo. Radio Onda Rossa, una finestra sopra il mondo. Tra cultura e informazione che non senti altrove. Espressione della strada, espressione del tuo cuore. Compromessi inesistenti, distante da vincoli e censure, dalla reclame. Sempre vera in prima linea per abbracciare ogni giusta causa. Una voce che si fa ascoltare. Onda Rossa è la radio che vogliamo sostenere. Yeah, Radio Onda Rossa. Senza padroni. Ai, fila, fila, fila sta radio. Smoke out. Smoke out. Hello. Stai ascoltando Radio Onda Rossa. Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que. Pacto viscum donna. Pusimos toda la música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole musica dell'America Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003 y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para adornar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol, tutti i giovedì dalle 17 su 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Il pueblo se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti i giovedì dalle 17 su 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Todos los jueves a las 17, la esquina del sur, tutti frecuencia de Radio Onda Rossa. E sì, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Radio Onda Rossa sull'87.9 di Radio Onda Rossa, giustamente, e per il mondo intero attraverso il www.ondarossa.info. Una nuova puntata, dicevo, della Esquina del Sol, cominciando benissimo alle 17:03 minuti primi di questo giovedì 25 marzo. Bella giornata di primavera, è arrivata la primavera. Io che sono nato e cresciuto nell'emisferio meridionale, la primavera per me significa 21 settembre ed è molto importante. Ancora dopo 4 anni, alcuni qua mi capiscono in questo studio, però dopo di stare qua in Italia alcuni anni faccio fatica a differenziare o relazionare il 21 marzo con l'inizio della primavera. Comunque, per fortuna in questa occasione non sono da solo, perché dopo tantissimo tempo ho presenza, compagnia umana, ovviamente nel rispetto di tutte le misure anti-Covid, per qualsiasi infame, perché so che anche pure gli infami ci ascoltano, che ci dia degli untori, rispettando tutte le misure anti-Covid. Per fortuna ho un po' di presenza umana, di compagnia, e comincio a salutare i miei compagni di trasmissione, di puntata. Victor, come stai? Mari Mari Peñi, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, benvenute a questa nuova puntata di La Schiena del Soul. E siamo con un altro bravo ragazzo. Siamo con un altro bravo ragazzo per completare la quota italiana, perché qua è al contrario. Giordano, come va? Buonasera. Buonasera, buonasera, buon pomeriggio, anzi a tutte e a tutti. Ben ritrovati e ben ritrovati sul 87.9 di Radio Onda Rossa. Bene, la primavera è arrivata. Io era da tanto tempo non venivo radio, quindi sono contento. Mi fa piacere tornare qui e trovare appunto una buona compagnia. Grande, meno male che ci sei. La nostra anima protettrice, cioè Marta, guarda che ci sono voluti almeno tre voci maschili per sostituire alla nostra anima protettrice, che ci ascolta ovviamente, con la quale saremo in comunicazione telefonica, ma più avanti. Ci ha lasciato i microfoni, ci ha permesso di stare qua, di occupare i microfoni di Radio Onda Rossa, a questi tre ragazzetti, ognuno penso con delle novità, perché per esempio vorrei chiacchierare in questo inizio di puntata della Schiena del Soul, 17.05 appena cominciata la puntata, volevo parlare delle novità. Un Victor che è diventato padre. Liwen, come sta? Certo, perché ti abbiamo fatto gli auguri tempo fa. Raccontaci cosa significa dormire poco, essere attento a un'altra vita che dipende da te, ma penso io sicuramente profondamente innamorato, o provando un amore che non avresti mai pensato di provare, forse. Sì, la prima cosa, un bacio a Arianna, un bacio... Certo, alla madre pure. Perché questa è una etapa nuova e bellissima della vita, che prima di conoscere Ari mai ho pensato di diventare padre. Quindi penso che abbiamo la fortuna di avere questa bambina che si comunica bene. Grande. Che come quasi parlasse, come che fa un rumore, un gioco con la lingua, e dopo sappiamo cosa deve fare, se non è il latte, sarà la cacca, se no è perché c'è un gas che non esce, se no è perché le manca dormire un po', quindi è un po' di quella dinamica bellissima di diventare genitori, che qua a Roma per questo io sono qua. Infatti, questo è il motivo, la vera ragione per cui. Infatti. E Giordano, come ti senti? Come ti senti circondato di questi stranieri che rubano i microfoni agli italiani? Perché oggi stai tu completando la quota italiana di questa trasmissione. Infatti, insomma, ho iniziato questo programma con Marta, quindi due, insomma, italiani, romani, quindi oggi ritorno e mi trovo addirittura in minoranza, quindi insomma, hai visto. Se Marta ci sta ascoltando, le dico insomma che mi manca, con tutto il bene che voglio a questi ragazzi, però Marta torna qui, insomma. Ci manchi a tutti noi. Sai cos'è quello, Giordano? Noi che veniamo giustamente del vero meridione, pensati che sei napoletano, essendo meridionale, c'hanno quello che chiamano loro la cazzima. Pensati noi dall'Argentina o dal Cile, quanti chilometri in più di cazzima ci abbiamo? Infatti sono un po' preoccupato per questa cosa. Non si scherza. Parliamo un po' di quello che ci avremo in questa puntata, se vi pare, per fare un adelanto. Parleremo di quello che abbiamo parlato la settimana scorsa, cioè la situazione del LOF Rofue, perché c'è stata una nuova incursione militare in quel LOF, con ancora delle detenzioni delle autorità mapuche, e ci abbiamo comunicato che era arrivato la settimana scorsa, in realtà nel momento stavamo a fare con Marta la trasmissione, la puntata, e avremo quel comunicato, no Victor? Eccoci, perché il LOF Rofue sta nel comune di Temuco, Metrenco, sì. Sarebbe il centro di Gualmapu, per localizzare così un po'. Quindi geograficamente è molto importante anche per questo. Quindi abbiamo questo audio che ci hanno mandato, tradotto da Marta, materiale della settimana scorsa, ma che, come vi dicevo, nella fretta di fare la diretta era arrivato veramente mentre stavamo a parlare di quella situazione e dei detenuti in quel LOF. Boh, ce l'avremo oggi, e questo audio, questa collaborazione non sarà l'unica cosa, perché ne parleremo ovviamente della situazione dei prigionieri politici. Purtroppo continuano i scioperi della fame, e pure là abbiamo un bel materiale, no? che possiamo condividere. Sì, oggi sarà una bella puntata della Schiena del Soul. Perché abbiamo tantissime cose per dire, tantissimi comunicati, cose. Sì. Sì, sì, sì, sì. Pure degli incendi parleremo, da una parte e dall'altra degli Andes. La settimana scorsa pure abbiamo parlato soprattutto degli incendi che sono accaduti tra il 7, 12, 13 marzo, giorni fa, a Chubut. Tu l'hai conosciuto quella zona, no, Giordano? Chubut, sì, la zona del Chubut, sì, la zona del Puelmapu, chiamiamola come, certo, come i Mapuche, insomma, vogliono che si chiami. Sì, appunto, parleremo degli incendi che stanno devastando sia il lato argentino sia il lato cileno del Puelmapu, e che appunto poi stanno compromettendo, e come sempre, come da secoli, la vita di tante comunità, comunque di tante persone che poi sono prettamente dipendenti da quella che è la vita nei loro campi, nelle loro comunità. E capiremo poi, insomma, che come sempre questi incendi non sono casuali, ma andremo un pochettino a scoprire quelli che sono i retroscena politici, economici alla base appunto di queste devastazioni. Appunto, sarà interessante perché giustamente ci avremo la testimonianza di Marilyn, una huarquén mapuche della parte argentina, che ci racconterà giustamente come loro stanno lottando contro gli incendi, ma pure come stanno lottando contro gli interessi dietro gli incendi. Quindi sarà una collaborazione, una testimonianza molto molto importante. Marta ci sarà con noi, dicevo, più in avanti, infatti la chiameremo per parlare della situazione dei prigionieri politici. Più o meno credo che abbiamo fatto un bel riassunto di tutto ciò che vi potete aspettare in questa puntata di La Esquina del Sol sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordate www.ondarossa.info. Me ne approfitto pure, già che stiamo chiacchierando così, perché vorrei dare una buona notizia che è stata data nella diretta, nelle diverse trasmissioni, anzi nella mattinata di Radio Onda Rossa, perché alla fine abbiamo conosciuto la notizia che gli imputati e le imputate al processo per l'occupazione del nuovo cinema Palazzo sono stati finalmente assolti per non aver commesso il fatto. E questa è una buona notizia per il nuovo cinema Palazzo, una buona notizia per la comunità di San Lorenzo, è una buona notizia per, direi, il movimento romano tutto, ed è una buona notizia veramente per chi prova ad organizzarsi autonomamente e a creare comunità nei diversi quartieri dell'Italia, e quindi una buona notizia veramente per tutti, tutte e tutto che stanno dalla parte giusta, diciamo, della vita. Veramente saluti ai compagni, e in questo momento, perché la radio è pure un servizio, ci permette questa cosa, vorrei fare alcuni saluti. Non so se voi avete, abbiamo salutato ovviamente Arianna, perché Victor torna dopo di essere diventato padre, quindi abbiamo un prima Liwen e un dopo Liwen, cioè l'ultima volta che lui era stato di fronte al microfono di Radio Onda Rossa era stato prima di diventare padre. E Liwen è un bel nome perché l'energia della luce, quella che è la forza del sole, che adesso arriverà con speriamo, più forza con la primavera. E speriamo veramente, quindi mando dei saluti, perché c'è una comitiva liguri argentina a Perugia che ci ascolta. Ci stanno i compagni e le compagne là che ci ascoltano, quindi sai, queste zecche che stanno lì alla Università di Perugia sicuramente, e non fuori. Questa è una comitiva che abbiamo fuori l'università, gente già cresciuta, una comitiva ligure argentina alla quale mandiamo dei saluti, come ovviamente a tutti voi che state dall'altra parte e che ci ascoltate, dicevo, sull'87.9 di Radio Onda Rossa in questo giovedì 25 marzo. E se ti pare, Victor, e sei ovviamente pronto, io direi che, guarda, te lo dico così, Victor, con un imperativo, perché so che sei felice. Baila. E così si comincia a ballare, dai. Pomeriggio di sole, di primavera, los Cheremeques aprono il percorso musicale che pure vi offriremo a La Esquina del Sol sull'87.9 di Radio Onda Rossa. E comincia giustamente questa puntata, come dicevo, con un imperativo. Permettetemi di questo, di dirvi così direttamente: baila. Baila, baila, baila, baila con calor. Baila, baila, baila, baila con sabor. Baila, baila, baila, baila con calor. Te quiero ver moviendo el cuerpo sin control. Baila, baila, baila, baila con calor. Baila, baila, baila, baila con sabor. Baila, baila, baila, baila con calor. Te quiero ver moviendo el cuerpo sin control. El ritmo lleva mensaje. Todos moviendo el cuerpo sin control. El ritmo lleva mensaje. Todos moviendo el cuerpo sin control. Baila, baila, baila, baila con calor. Baila, baila, baila, baila con sabor. Baila, baila, baila. baila, baila con calor. Te quiero ver moviendo el cuerpo sin control. Baila, baila, baila, baila con calor. Baila, baila, baila, baila con sabor. Baila, baila, baila, baila con calor. Te quiero ver moviendo el cuerpo sin control. Baila pa' sacarse la pena. Los Ceremeques, baila sull'87.9 di Radio Onda Rossa in questa puntata di La Esquina del Sol, 17 e 15 minuti primi. Los Ceremeques ci fanno ballare in questo inizio di puntata e così sarà, diciamo, un po' la proposta musicale, anche se sapete, qua possiamo andare dalla cumbia alla salsa, ai ritmi più caraibici, alla cosa più anche meridionale davvero, come dicevamo, portando la cumbia direttamente dal Cile o dall'Argentina. Quello che suona ora, Pastor López, Tabaco Ron, forse è presto. Traigo la cumbia. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco. Tabaco y ron. Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura. Esa amargura, esa amargura. Lleva, compadre, tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz. Sabio, necio, indiferente. Tabaco y ron. Così ci propone Tabaco Irrón, Pastor López, nell'inizio, un inizio che andremo a modificare un po' su l'87.9 di Radio Onda Rossa, perché ci chiamano le compagne. C'era un presidio oggi in solidarietà con le donne turche. Voi sapete, la Turchia è uscita dalla Convenzione di Istanbul, la Convenzione contro la violenza contro le donne. Dall'altra parte della linea ci abbiamo sta là a Viola, compagna, che ci racconterà come va questo presidio. Compagna, buonasera, come va? Ciao, grazie, buonasera a tutte e tutti. Niente, qui siamo circa 200, siamo aumentate via via, aumentati. Siamo a Roma alla manifestazione organizzata in solidarietà con le donne turche, con in realtà tutte le donne, perché è fuoriuscita dalla convenzione di Istanbul da parte della Turchia e del governo. È una cosa molto grave, perché ricordiamoci che la Turchia era stata la prima firmataria di Istanbul, di una convenzione che è ancora adesso una delle poche, come dire, convenzioni internazionali che sanciscono prioritaria da condannare la violenza contro le donne in tutti i luoghi, in tutte le famiglie e negli spazi pubblici. Quello che è successo è che il governo turco guidato da Erdogan è fuoriuscito dalla convenzione di Istanbul facendo delle affermazioni che avevano a che fare con la presunta difesa di una presunta famiglia. Ricordiamoci che la Turchia è un luogo in cui i femminicidi sono stati contati dall'inizio dell'anno circa di uno al giorno, solo quelli denunciati, un luogo in cui le violenze contro le donne, le violenze contro le donne turche e, ricordiamoci, tutte le donne curde, le intellettuali, le militanti, le compagne, sono all'ordine del giorno. Solo in piazza è stato ricordato che ci sono delle donne carcerate che non hanno neanche la possibilità di essere visitate dalle delegazioni internazionali, quindi la situazione è molto grave, e ricordiamoci che comunque l'Europa fa fior fiori di accordi con il governo turco. Quindi insomma è importante essere qui e stare qui e ricordarci che insomma la questione dei diritti delle donne duramente conquistati contro la violenza è una questione che ci riguarda tutte e tutti, insomma. Senza dubbio. C'è una compagna curda che sta con te, no? Che ci potrà pure raccontare un po' la situazione, forse all'interno, come vivono le donne turche e non curde, per esempio, all'interno della Turchia. Esatto. Sta intervenendo adesso, vi faccio sentire. Grazie. Sentiamo un attimo allora l'intervento della compagna curda nel presidio in solidarietà alle donne in Turchia. Le donne curde, turche, di tutte le altre etnie, non siamo sole, e ci siete dimostrate la vostra presenza, la vostra solidarietà. Vi abbracciamo con tutto il nostro affetto. Grazie, grazie per esserci. E adesso ve la passo un attimo. Dai, se sta, penso, lasciando il microfono. Pronto? Dopo il suo intervento. Quindi... Eccomi. Ciao. Ciao, salve, eccomi. Salve, parlavamo e ci aveva fatto Viola un po' il contesto di ciò che rappresenta, di ciò che significa l'uscita della Turchia dalla convenzione di Istanbul. Prima ti chiedo ovviamente un parere e che ci racconti, darci il tuo parere, la tua testimonianza su questo presidio. Viola ci ha raccontato un po', ma vorrei anche sapere come lo avete portato avanti, e dopo ti chiederei cosa significa in concreto, o cosa può significare in concreto, l'uscita della Turchia di questa convenzione di Istanbul per le donne turche non all'interno dello Stato turco. Io prima di tutto, a nome di tutte le donne, vi ringrazio, a tutti i giornalisti radio che in questo momento ci state lavorando e ci state dando la nostra voce agli altri, e di questo siamo lieti della vostra solidarietà, anche perché la nostra voce ci deve essere sentita da tutto il mondo. Oggi il presidio è riguarda la convenzione di Istanbul, che lo Stato turco, e precisamente la decisione di Erdogan, che è stata ritirata la convenzione di Istanbul. È stato un atto gravissimo nei confronti delle donne, soprattutto che vivono in Turchia, ma non solo le donne turche, le curde, ma vivono molte altre etnie in Turchia, questo passo ci ha fatto una grande delusione, come fosse stata un'offesa, è stata una delusione. Già le donne in Turchia non sono, la Turchia o soprattutto non è un paese moderna come si dimostra agli altri stati, non è un paese culturalmente aperto come si dimostra agli altri paesi. E con questo atto gravissimo che si è ritirato si è dimostrato assolutamente che è un paese che sta andando verso un stato islamista radicale, e questo radicalismo ucciderà più le donne, ucciderà più gli uomini, e soprattutto i diritti delle donne verranno annullati giorno dopo giorno. Vi ricordiamo a tutti che in Turchia non passa un giorno che le donne non vengono uccise, non vengono torturate. Non è vero, come dice Erdogan e i ministri di Erdogan, che la violenza sulle donne in Turchia si è diminuita. Solo nel 2021 si sono registrati le uccisioni delle donne, più di 1500 donne sono stati uccisi. Allora, con oggi, con questo presidio che siamo qui e stiamo lanciando gli appelli ai diritti umani, agli stati europei che devono intervenire immediatamente, non solo politico, non solo sociale, ma devono fare i passi concreti contro Erdogan e contro questa sua decisione al favore delle donne, perché le donne non possono subire tutti i giorni la violenza, le donne non possono essere uccise tutti i giorni. Questo è un atto gravissimo, non possiamo essere uccisi dai nostri mariti, i nostri fratelli, i nostri compagni, e l'Europa deve fare un passo concreto. Non bastano le chiacchiere, non bastano gli appelli, ma ci devono essere i passi ben chiaro, come dicevo poco fa, che l'Europa non deve avere la paura dello Stato turco, perché lo Stato turco fa parte di NATO. E allora questo Stato che fa parte di NATO ma dall'altra parte uccide i curdi, uccide le altre etnie, che i carceri turchi sono pieni, non ci sono più i posti nei carceri perché sono pieni dei avvocati, dei magistrati, dei curdi e dei turchi democratici di sinistra. E allora noi chiediamo ai diritti umani di intervenire immediatamente. Se stiamo parlando dei paesi europei, democrazia, i diritti umani, dei passi contro la violenza, ci devono dimostrare immediatamente, l'Europa ci deve dimostrare, altrimenti l'Europa sarà il complice di Erdogan e di questa sua decisione, e che già ci stanno venendo i dubbi che l'Europa è complice di Erdogan con le armi e con la violenza che Erdogan sta creando sui curdi e sulle donne. E quindi oggi il nostro presidio a darci la voce a tutte le donne, a fare l'appello a tutte le donne, ma soprattutto agli stati, di intervenire assolutamente a fare un passo concreto contro Erdogan e contro la violenza di Erdogan. Compagna, oltre a questa richiesta, diciamo, formale di chiedere l'adesione, la solidarietà a diverse istituzioni, a diversi stati, stai al corrente di come continuerà la lotta in Turchia delle donne, tenendo in considerazione, ricordo, la situazione della Polonia, dove le donne sono in situazione di mobilitazione permanente? Dico, sai più o meno come si sta organizzando il movimento delle donne in Turchia, tenendo in considerazione pure la forte situazione repressiva? Sai come quello là? Sì, allora io forse mi è sfuggita a dire che il giorno in cui che Erdogan ha firmato e il giorno in cui che è uscita sulla Gazzetta Ufficiale in Turchia, che è uscita a mezzanotte, e che venerdì mattina le donne, migliaia di donne, erano in piazza in Turchia a condannare questo atto gravissimo, ma le donne, centinaia delle donne, sono state arrestate, trascinate per terra, trascinate per i capelli e portati nelle caserme. Tuttora ci sono centinaia di donne arrestate nelle caserme della polizia turca. Le donne non si fermeranno. Adesso, attualmente, in questo momento, in tutta l'Europa le donne sono in piazza, le donne stanno lottando, e questa lotta non finirà. Non finirà finché che l'Europa non facesse un passo concreto nei confronti di Erdogan, questa lotta non finisce. Adesso in Italia moltissime donne, come oggi che ci siamo organizzati, ci stanno organizzando, diverse città dell'Italia, in Germania, in Francia, dappertutto si stanno organizzando, uscendo per la strada, nelle piazze, a chiedere questo atto di Erdogan violento, atto criminale che ha commesso nei confronti delle donne. E quindi le donne attualmente stanno in piedi a tutte le piazze, specialmente in Turchia, che nonostante le torture, nonostante l'aggressione della polizia, nonostante gli arresti, le donne non si stanno fermando, le donne stanno in piazza e tutti i giorni escono in piazza a protestare questa decisione e continuerà, sicuramente non ci fermeremo qui, siamo solidarietà alle nostre sorelle curde, turche e tutte le altre etnie che vivono in Turchia. La nostra solidarietà non finirà, ma nemmeno la loro lotta contro questa decisione non finirà. Quindi voglio dire che attualmente siamo tutti in piazza, uno l'altro, ma comunque siamo uniti a andare contro questa decisione. Compagna, se non hai altro da aggiungere ti saluto, se no i microfoni di Radio Onda Rossa a tua disposizione per chiudere, e ti chiedo prima di chiudere di passarmi nuovamente con Viola, quindi i microfoni di Radio Onda Rossa per aggiungere ciò che consideri necessario da dire. Io vi ringrazio, ripeto, ringrazio a tutta la solidarietà dei compagni italiani, delle compagne italiane in questo momento che non siamo sole e soli in piazza, e io chiedo a tutti gli italiani che si sentono democratici, si sentono i diritti umani, si sentono di veramente un minimo di coscienza, devono dimostrare la loro solidarietà, nonostante noi abbiamo una marea dei compagni italiani e italiane con noi, e di questo ringraziamo di cuore con un grande affetto. Grazie anche a voi. Grazie a te, vediamo se grazie. Posso salutare Viola, ci sei? Sì. Sì, ecco. Niente, ti saluto, grazie per la testimonianza, per averci chiamato, non so se vuoi aggiungere altro prima di no, salutarti. Un saluto femminista a tutte e tutti e grazie per lo spazio. Grazie a te, buona lotta Viola, a tutte e tutti e massima solidarietà. Ciao, grazie. Arrivederci. Abbiamo parlato con Viola, compagna romana presente nel presidio, una cosa che ovviamente dovevamo portare alla diretta di Radio Onda Rossa, ci voleva, no? Ringraziamo appunto le due compagne che sono intervenute, insomma, in questo per parlarci un po' di quello che sta avvenendo qui a Roma e in generale appunto la situazione in Turchia, e appunto poi ricordiamo che il ritiro della Turchia nella Convenzione di Istanbul fa parte poi un altro tassello, l'ennesimo tassello da parte dello Stato turco, del sultano Erdogan verso una deriva nettamente autoritaria, ecco. Sì, io non voglio mancare di rispetto a nessuno e a nessuna, però non saprei come definirlo in un termine più accademico, però è diventato veramente uno schifo la situazione della Turchia, politicamente parlando. Sì, no, è sempre stata veramente una situazione complessa quella della Turchia, a partire poi appunto dalla repressione interna, ricordiamo quella del popolo curdo, che è sicuramente quella più nota, ma insomma ce ne sono tante altre, diciamo, considerate minoranze etniche, appunto subiscono la pressione da decenni, da secoli, anche quella attuale da parte dello Stato, e sicuramente poi da quando c'è stato, possiamo definire a tutti gli effetti, il colpo di Stato di Erdogan, sicuramente questa situazione si è inasprita, è aumentata, e poi vediamo che appunto a pagarne le conseguenze sono sempre delle specifiche componenti, e in questo caso appunto poi sono, come è stato dimostrato dal ritiro della Convenzione di Istanbul, sono poi prettamente le donne che stanno pagando anche questa situazione di oppressione, come è stato sottolineato appunto dalla compagna che è intervenuta. Parliamo del rischio della deriva della Turchia di diventare una teocrazia, si sentono le campane in contemporanea, no? Questo vuol dire che sono pure le 17:32 primi minuti. Prima di metterci nell'argomento del Rofue, un po' di musica, Victor. Contro lo Stato cristofascista. E allora dai, vai. No doubt. Un po' di musica. Subito cominciamo con gli argomenti di cui avevamo detto. Adesso quello che suona Surita, il gigante del style. PLO style. Put a monks with the app, yellow staff. Put a monks with the app, yellow staff. Put a monks with the app, yellow staff. Arriba las manos. Here come the ruckus, the motherfucking ruckus. Thousands of cutthroats and crumb snatching fuckers. Straight from the grain, I'll be giving you the pain. Anger coming from the 36th chamber. Bang, the cow hitting with the Buddha fist style. Ch- shotgun, slamming in your chest piece, blah. Frame gets blown all over the terrain. Like a man without no arms, you can't hang. Time for a change of the guard. You've been arrested for lyric fraud, now you barred. For real, check it. I pull strings like BB King on guitar. I'm the true fist of the North Star. Oh, what a tangle web we weave. When first we practice to deceive, guns be clinking. Running with my clan, we be sticking whatever. My street family stay together, represent what I have been. Killer Hill resident, rest in peace to my nigga 2 Cent. The street life is the only life I know. I live by the cold style, it's mad PLO. Iranian thoughts are covered like an Arabian. Grab the nigga who on the spot and put a nun. PLO. PLO style, food amongst with the owl. PLO style, food amongst with the owl. PLO style, food amongst with the owl. PLO style, PLO style, food amongst with the owl. PLO style, food amongst with the owl. PLO style, food amongst with the owl. PLO style, satisfaction, niggas won't be lasting long unless they get protection for real. Strong, strong, coming with my clan, so what's happening? Commercial rap, hate it with the passion. The M-E-T-H-O-D got me drinking OE all night in the MPV, just maxing. Looking for hoes, you know, relaxing. Bitches know the hour, it be time for some action. PLO, peace to that nigga Berriano. What up, bitch? Take him to the bridge. PLO style. Food amongst with the owl, PLO style. Food amongst with the owl, PLO style. Food amongst with the owl, PLO style. Così passa Surita con El Gigante del Style sull'87.9 di Radio Onda Rosa, puntata di La Esquina del Sol di questo giovedì bello di primavera, 25 marzo, corrisponde all'emisferio settentrionale, quindi benissimo, come tutti gli anni si presenta la primavera, sempre un po' diversa, questa, no? Questa cosa del cambio dell'emisfero ti sconvolge un po' ancora. Alcune cose sì, già mi sono abituato al Natale con freddo, questo è normale, cosa che voi non potete immaginare. Per me un Natale con, ad esempio, al mare in estate sarebbe impensabile. Infatti, però pensa quanto sono anche privilegiati. Bello, pensa quanto sono privilegiati, per esempio penso vicino a noi Argentina, i fratelli e le sorelle brasiliane, per esempio, che hanno quei capodanno bellissimi sulla spiaggia, chi può. Mettiamoci negli argomenti che dovevamo sviluppare. Abbiamo detto di cominciare con quello che vi abbiamo portato in quanto a nuove informazioni di incursioni repressive dello Stato cileno in territorio mapuche rispetto al Lof Rofue. Abbiamo parlato con Marta la settimana scorsa e ora abbiamo un contributo da condividere con voi. Avevamo adelantato, avevamo detto, anticipato di un audio che ci era arrivato giustamente mentre facevamo la trasmissione di settimana scorsa, che ci racconterà un po' qual è la situazione storica. Sempre sono interessanti queste testimonianze perché ci mettono un po' anche in contesto storico, quindi qual è la storia del Lof Rofue, che come diceva Victor, un Lof che si trova, diciamo, nella parte centrale del Mapu, il territorio mapuche nello stato cileno. Ci racconterà pure della decisione di tanti compagni e compagne mapuche di passare veramente alla clandestinità per l'accanimento, per la repressione dello Stato cileno, e anche il nuovo tipo, la nuova strategia di difesa che hanno deciso di cominciare a portare avanti. Quindi, se Victor tu mi dici che è tutto pronto, io ti direi allora andiamo ad ascoltare questo lavoro che ha fatto Marta per noi. Ascoltiamo quindi il contributo direttamente dal Lof Rofue in Cile. Bueno, nuestro Lof stavo sempre in un processo di rivendicazione. Allora, il nostro LOF è sempre stato in un processo di rivendicazione territoriale che inizia da quando la nostra gente ha cominciato a fare resistenza alle prime colonizzazioni del territorio mapuche. Fondamentalmente qui si è cominciato a dare giudizio storico dal 1935 in poi, quando in quel momento la nostra gente ha lottato e si è scontrata e ha rivendicato il diritto legittimo al suo territorio e alla sua terra. Poi anche sotto la dittatura c'è stato uno scontro molto forte. La nostra era una comunità importante nella lotta e nella resistenza contro il dittatore Pinochet. E anche lì ci sono stati pegni arrestati, tentativi di annullamento della nostra gente, compagni e familiari che ancora hanno problemi con la tortura, prigionieri politici mapuche che erano prigionieri mapuche della dittatura in quel periodo. Oggi in democrazia la situazione non è cambiata molto, il nostro LOF si chiama LOF Rofue. Abbiamo ancora problemi con altre persone che vivono nella nostra zona, abbiamo ancora problemi con coloni che sono venuti ad usurpare la terra e che, come dicevo, oggi stiamo giustamente recuperando e rivendicando e di cui ci stiamo prendendo cura, di uno spazio che per noi comunque ha un significato profondo ed è usurpato da questa gente. In questa lotta territoriale dove lo Stato del Cile continua a vivere nella sua democrazia con tutte le sue amministrazioni che hanno avuto i diversi governi post-dittatura, hanno continuato ad avere una politica di reazione in qualche modo sbagliata verso la nostra lotta legittima. La militarizzazione, la persecuzione politica, la prigionia politica anche, e ciò che è ancora peggio, la repressione e la persecuzione della nostra gente e alle autorità tradizionali, di cui qualcuno tra l'altro ha pagato anche con la prigionia politica per la questione del caso Huracán. Ora mio fratello è stato arrestato, c'è stata un'irruzione molto grande, è arrivata una quantità gigantesca di polizia militarizzata con tank militari, violando le nostre case, rompendo le finestre, i vetri, le porte, buttando per aria tutto ciò che trovavano nelle nostre case, le nostre cose, le cose che abbiamo per vivere bene nella comunità. In questo contesto direi che oggi noi come LOF, così come altri LOF, intendo in tutto il Gualmapu, dobbiamo accettare una lotta più dura, più diretta e più degna, nel senso che già abbiamo assunto la prigione politica di un pegno di questa comunità, così come ci stiamo assumendo la clandestinità di altri pegni che stanno qui e che sono perseguitati ingiustamente per delitti che tra l'altro sono accaduti molto tempo fa e che sono questionabili e che riguardano la morte di un carabiniero de Cile. In questo caso sto parlando del carabiniero Eugenio Naín. Queste sono le cose che si portano alla nostra, le accuse che si portano alla nostra comunità, ma credo che sia solo per loro un mezzo per intervenire nel nostro LOF. Il LOF è sempre stato in resistenza costante, abbiamo recuperato territorio, siamo avanzati nel nostro processo di recupero territoriale, abbiamo territorio che è nostro, stiamo coltivando la terra recuperata, controlliamo il territorio, abbiamo diverse case, diverse lucas nel territorio e nella terra recuperata. In qualche modo lo Stato ci deve fare fronte, deve fare fronte a questa politica di liberazione, a questa politica di rivendicazione nostra che è legittima, il tema della terra, il tema della restituzione come popolo nazione mapuche, a partire dal suo territorio, dalla sua base sociale, dalla sua cultura, dalla sua vita politica interna come popolo nel Mapuche-Chilien, dal buon vivere, dal modo di vivere la vita del nostro popolo nazione mapuche. Come vi dicevo prima nella nostra intervista, essere perseguitati è un pensiero, un modo di vedere. Al di là del delitto si sta perseguitando un pensiero e noi come LOF e parte della resistenza mapuche abbiamo l'idea, il pensiero della liberazione. Per questo veniamo criminalizzati, per questo continuano a criminalizzarci. In questi giorni sappiamo e torniamo ad apprendere che la militarizzazione esplode nelle comunità, esplode su tutti i settori ed è semplicemente un mandato che sta dando il capitale, perché al capitale in qualche modo non conviene che noi come Mapuche siamo contro di loro, perché stiamo fermando i progetti, stiamo frenando l'invasione mineraria che devasta i nostri fiumi, stiamo lottando contro le forestali perché escano dalla terra, stiamo lottando contro alcuni latifondisti che sono venuti ad usurpare ed hanno portato per centinaia di anni una politica di repressione, discriminazione e razzismo contro la nostra gente. Per questo ci criminalizzano, per questo oggi ci perseguitano, per questo oggi ci mettono a processo, sotto certi aspetti ci stanno processando politicamente. Mio fratello ad esempio, lui Strana Minnahuel, è detenuto nel carcere di Temuco. Alla stampa è stato presentato come un assassino, l'assassino del capo Nain, e quindi è stata criminalizzata la sua figura, e con questa si è criminalizzata la figura dell'Of e del parte del popolo Mapuche in resistenza, che siamo noi dell'Of Rufue. Su questo facciamo un appello a stare allerta su ciò che sta succedendo, non solo qui ma anche a Temuco Cui, in diversi territori, in diverse zone, in Arau, come Maieco, nel sud si stanno perseguitando le persone solo per pensare in un modo diverso, per portare avanti i processi legittimi di recupero territoriale, lottando contro le idroelettriche, lottando contro le forestali e contro i diversi megaprogetti che lo Stato vuole implementare sulla terra che è nostra. Per questo confermiamo e diciamo basta, non vogliamo più grandi imprese, non vogliamo più interventi nei nostri fiumi, nei nostri laghi, nelle nostre montagne, nei nostri settori. Ciò che esiste è una resistenza, e questa resistenza viene affrontata con la militarizzazione. Sappiamo che continueranno le incursioni, per esempio oggi, questo stesso giovedì, un comando di militare, non carabinieri né polizia di investigazione, si è installata all'entrata dell'OFF e ha cominciato a controllare la gente che entra e esce dalla comunità. Appunto, non erano un modo per alzare il conflitto, insomma, però questo è un tema molto forte, quello della continua presenza. Appunto, non erano carabinieri, polizia, ma comunque sia, ed erano assolutamente vestiti in maniera militare con tutte le loro forniture bertiche del caso della nostra comunità. Il mio nome è Fidel Trana Minnahuel, macido dell'Of Rufue, parte delle autorità tradizionali Mapuche e fratello del prigioniero politico Mapuche Luis Trana Minnahuel. Saluti e solidarietà, molta forza. Noi, nonostante possa accadere che un Peñi cade prigioniero, che una Lamian cada prigioniera, non è perché cade preso un paio di persone. Come comunità andremo avanti nel processo di resistenza e di lotta nel nostro Gualmapu. E così ascoltavamo il contributo del Peñi de Fidel Trana Minnahuel, il fratello di Luis Trana Minnahuel, detenuto settimana scorsa lì nell'Of Rufue. A me risultano interessanti almeno due cose da segnalare, perché credo che aiutano a far capire meglio chi non conosce o chi ancora sta conoscendo la lotta Mapuche di cosa si tratta, cosa significa per loro, come portano loro avanti la lotta. Una, accettare, decidere, perché hanno accettato le condizioni che ha imposto lo Stato cileno, la clandestinità, che non è poco, come diceva Marta o come dicevamo la settimana scorsa, come i latitanti qua, però ovviamente loro restano dentro i confini dello Stato cileno e passano la clandestinità vivendo nel territorio, dopo essere consapevoli del tipo di resistenza che devono portare avanti, una resistenza più attiva, perché di fronte c'è uno Stato che reprime, che non vuole dialogare e che non presenta o non predispone la più minima intenzione per giustamente portare avanti un dialogo. Riscatto, segnalo un'altra cosa, la terza, interessantissima, perché lì sì ci collega con gli interessi capitalisti nostrani che conosciamo, come loro parlano della cura che prendono del territorio, perché ci spiegava Fidel nell'audio, nella testimonianza, come prendono cura, come cominciano a portare avanti la loro società, la loro comunità, eccetera, eccetera, e questo significa ovviamente confrontarsi con i grandi interessi, no? Le riprese idroelettriche e così via. Quindi una lotta diretta al capitalismo. Almeno alcuni spunti, alcune cose da segnalare che mi risultavano interessanti e che, ripeto, possono aiutare a capire meglio qua, no? Fuori del Gualmapu o del Pualmapu, la situazione del popolo Mapuche. No, io mi riaggancio a quest'ultimo punto che, insomma, che è stato tirato fuori, appunto quello della difesa del territorio. Questo perché appunto poi ricollegando, cioè anche per capire come noi possiamo interagire con queste dinamiche, spesso insomma il diciamo l'indigenismo, diciamo così, o comunque la lotta dei popoli originari rispetto alla difesa dei territori e del territorio e del loro territorio, a volte qui viene vista un po' come una sorta di folclorismo indigeno, insomma, come questa maniera un po' vecchia di appunto prendersi cura della natura, del vivere in campagna, eccetera eccetera. E questa è una percezione totalmente sbagliata, cioè nel senso, qui non si tratta di un ecologismo della quattro soldi, né nel senso di coltivare, non so, di fare l'orticello bio o di avere la piantina in casa, ma appunto qui si tratta di una spiritualità, o comunque di una cultura, di una maniera di vivere ancestrale che è strettamente legata al territorio. Appunto i Mapuche dicono sempre che non è una questione di attaccamento alla terra, perché appunto non, cioè nel senso, non una questione di non volersene andare da lì perché non vogliono spostarsi in altri territori, ma dicono proprio noi non possiamo essere Mapuche se non fuori dal nostro territorio, perché appunto poi a livello identitario si è creata questa simbiosi tra il territorio, quindi tra la sua difesa e l'essere Mapuche, sia in maniera individuale che in maniera comunitaria. Quindi di conseguenza poi appunto, come diceva Mariano, questa logica, quella logica della difesa del territorio, dell'attaccamento alla natura come un proprio essere, appunto, non una divisione come la vediamo un po' noi, appunto, che se noi siamo un po' i soggetti e il circostante è l'oggetto, ma loro appunto vivono in simbiosi con il circostante, e questo appunto poi si scontra con le logiche che sono le logiche appunto imprenditoriali, logiche estrattive, che vedono nel territorio, in particolare nel territorio Mapuche, che ricordiamo è un territorio estremamente ricco da un punto di vista naturalistico e di risorse appunto naturali, è stato estremamente ricco, poi appunto nella logica dominante in Cile, appunto, che è la stessa logica che domina anche i nostri territori e un po', diciamo, il globo intero, la ricchezza naturale equivale a profitto, e di conseguenza appunto poi queste ricchezze vengono sfruttate per, secondo appunto delle logiche estrattive, per tirare fuori appunto delle forme di profitto economico, che poi appunto è un profitto essenzialmente individualistico, che va sempre nelle mani dei soliti, delle grandi corporazioni internazionali, che spesso e volentieri sono appunto poi di origine europea o molto spesso statunitense. Ricordiamo appunto le idroelettriche, le minerarie, le forestali, eccetera eccetera. Sì, e rispetto o riferito a quello, succede che la battaglia discorsiva diventa difficile perché sempre c'è in ballo la parola progresso. Esatto. E questi, io sì, liberali se non liberisti, pseudo progressisti, no, tirano in ballo la parola progresso, il progresso economico, e quella è una cosa che pure dobbiamo smontare, mi pare. Quella è una parte del discorso molto importante, perché giustamente dall'altra parte non si tratta di fare ambientalismo di quattro soldi, è una roba molto seria di presa di cura di un territorio, di appartenenza allo stesso territorio, fondamentale per quel popolo che insiste, perché questa è una cosa che si deve spiegare, se no sembra pure un anacronismo, no? Una cosa anacronica, rimasta, ma chi sono questi Mapuches? Pensate che il genocidio Mapuche è stato perpetrato sia in Argentina che in Cile a fine del XIX secolo e ancora, direi, inoltrato il XX secolo. Quindi è molto, e io l'ho detto più di una volta, qua è molto facile trovare persone forse della nostra età, tra i 35-40 anni, tra i 30-40 anni, che sono discendenti diretti di Mapuche. Perché c'è stato certo un processo di acculturistazione. Chiaro, però poi non sono sì, chiaramente poi lo Stato cileno, sebbene fosse tra le sue volontà, non è riuscito effettivamente, lo vediamo appunto dalla presa di coscienza, dal conflitto messo in campo a livello quotidiano delle comunità, appunto, poi non è mai riuscito a sradicare fino in fondo quella cultura ancestrale. E poi appunto, riferito a quello che dicevi tu sulla questione del progresso, è questo che ad oggi c'è un po' un'ipersemplificazione del discorso del processo, che è visto solo come crescita economica, ed è chiaro appunto, insomma, poi carta in tavola, è chiaro che la crescita economica, come si diceva prima, è equivale all'interesse di pochi, quindi appunto è una narrazione tossica rispetto al concetto di progresso, che è un concetto essenzialmente poi di derivazione coloniale, europea, insomma, eccetera eccetera. Sì, sì, so che ancora alcuni per esempio pensano che sia progresso Amazon, no? Per darvi un'idea di quanto sia difficile, per questo parlavo della battaglia discorsiva. So che la maggioranza di chi ci ascolta non la pensa così, alcuni sicuramente sì, e ci ascoltano per rosicare un po'. Importante, Victor, ci dicevi l'importanza giustamente del Love Rufue, perché si trova nel centro geografico del World Mapu, e questo caso ha aiutato ulteriormente a forse una unità delle diverse comunità. Sì, la difesa della terra, come hanno detto, che non è una cosa folclorica, è la difesa dello spirito, dell'energia. Quindi l'organizzazione adesso è fondamentale per fare tutta questa protezione, perché queste lunedì hanno fatto un incontro 11 comunità. Quindi è un'organizzazione seria, che anche hanno fatto la lotta armata, perché già non si può fare niente contro lo Stato cileno. Quello è una cosa che arriva di tanti anni fa, prima gli spagnoli, dopo l'Inca, e così è fatta la storia mapuche, sì, di resistenza. Quindi adesso, in questo momento, in quella zona di Gualmapu, che sarebbe Temuco, Lautaro, quella zona Nueva Imperial, adesso questo incontro ha successo in Nueva Imperial, è una mostra di come si fa questa organizzazione nuova della difesa della terra, della matria, della ñuque, che le chiamiamo noi, che sarebbe la mamma, la ñuque mapu, la mamma terra. Quindi è una cosa che non è folklore, è organizzazione adesso. In concreta, sì. Organizzazione concreta che si confronta con grandi interessi. La nostra anima protettrice Marta ci sarà con noi tra pochissimo. Stiamo per finire la prima ora di La Schina del Sol, sull'87.9 di Radio Onda Rossa, 17:54, e giustamente abbiamo una cosa dedicata a Marta, perché credo che è stata addirittura una richiesta personale di lei. Quindi quello che suona o comincia a sentirsi su Radio Onda Rossa, sull'87.9, La Schina del Soul, per Marta, direttamente dedicato per lei, ci mancherebbe altro, ovviamente. E dopo ci sarà anche con noi attraverso una chiamata telefonica, perché già ci mettiamo direttamente nell'argomento dei prigionieri politici, della rivolta in Cile. Ci sono delle novità addirittura che ci sono arrivati proprio ora, e vi diremo tutto ciò tra scioperi della fame che cominciano, scioperi della fame che finiscono, ma la lotta che ovviamente continua. Tiger Vampire, la terrorista del sabor, suona nell'87.9 direttamente para Marta. Tra pochissimo ci sentiamo. Ora a ballare con la terrorista del sabor. Todo el día esperándote y que me escribas y no me dejes en visto otra vez. Es el bazooka en que no se inhala, no se fuma ni se inyecta en la vein. Solo hay una inyección que me consuela y es tu intrapiernosa que llegó enhorabuena. Después de toparse con miserias llega esta vaina y se me llenan las arterias. No sé de dónde saliste, pero me encajaste y me dejaste como un tigre. ¡Miau! No sé de dónde saliste, pero me encajaste y me dejaste como un tigre. Ahí, Tiger, Tiger, te salvaste, te convertiste en un vampire. Tiger, Tiger, te salvaste, te convertiste en un vampire. Tiger, Tiger, te salvaste, te convertiste en un vampire. Tiger, Tiger, te salvaste, te convertiste en un vampire. Y con un poco de humor me saqueaste como Alejandro a los persas. Incendiaste esta historia y te fuiste sin vergüenza. Llenaste la copa con sermones. Inconsecuentemente no llegaron las acciones.